È il 13 dicembre del 1971, ufficio del Provveditorato di Roma. L'impiegato incaricato di inviare le comunicazioni per corrispondenza ha in mano una raccomandata da spedire. Il contenuto è l'assegnazione di un nuovo incarico di insegnamento presso la Scuola Media Statale Donatello, situata nella borgata di Torre Gaia. La raccomandata dice che la notifica vale come nomina a effetto immediato e che il trasferimento fa seguito alla richiesta ricevuta dal preside dell'Istituto Tecnico Pantaleoni di Frascati. Il destinatario di quella raccomandata è Maria Silvia Spolato e quella lettera, che apparentemente le assegna un nuovo lavoro, si rivelerà invece l'anticamera del licenziamento. Mi chiamo Sara Poma e questo è Prima, la storia della prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia. È la storia di come stavano le cose prima e di come, grazie al coraggio di alcuni e al sacrificio di molti, sono diventate più semplici, anche per me. Quella raccomandata del provveditorato fa precipitare Maria Silvia in una situazione kafkiana, o meglio, in un paradosso burocratico che decide di affrontare comprensibilmente come una questione di principio, cosa che però le si ritorcerà contro. La causa di quella rimozione rimane tutt'oggi un mistero. Sembra che la motivazione ufficiale fosse una vaga incapacità all'insegnamento. Ma chi ha conosciuto Maria Silvia da vicino sostiene che le cose andarono in modo diverso. In seguito alla sua militanza sempre più alla luce del sole, il preside dell'Istituto Superiore di Frascati, in cui insegnava matematica e informatica, aveva a un certo punto deciso che basta, quell'impegno politico e quella omosessualità ostentata erano troppo. Inficiavano il rendimento e andavano contro il decoro che un insegnante di scuola pubblica dovrebbe mantenere. Quindi aveva deciso di scrivere una lettera al provveditorato denunciando la situazione. La risposta era stata veloce ed efficiente. La soluzione era rimuovere la professoressa Spolato dall'incarico attuale per assegnarla, o meglio, demansionarla, presso una scuola media di borgata. Maria Silvia aveva risposto alla raccomandata, prima segnalando l'inesattezza. Lei un incarico ce l'aveva già e non aveva chiesto un trasferimento. Quindi aveva rinunciato alla chiamata presso il nuovo istituto e questo, probabilmente, aveva decretato la perdita del lavoro in toto. Si era quindi trovata disoccupata all'inizio del 1972. Questa storia me l'ha confermata una signora che si chiama Anna Rapp, che all'epoca dei fatti non solo era una compagna di lotta di Maria Silvia al circolo femminista Pompeo Magno, ma una delle sue più care amiche. Allora un giorno mi disse, dice, vieni a vedere, andiamo al ministero, ti faccio vedere perché mi hanno mandato via. Allora siamo andati al ministero e lei poi, tra l'altro, senza chiedere a nessuno, io non so come, ha tirato fuori un fascicolo. E su questo fascicolo la prima pagina era quella del fuori o dello specchio, io adesso non ricordo, comunque una pagina dove c'era lei che aveva un cartello dove diceva che era lesbica. E da lì la storia sua, ma lei a quel punto non era assolutamente instabile. Anna tiene a sottolineare questo. Lei, che la conosceva bene, sostiene che prima di perdere il lavoro e la casa, Maria Silvia non aveva mai dato segni di avere problemi di salute mentale. Era una persona originale, ma se tutte le persone originali debbono essere qualificate come instabili, non esiste. Lei era una matematica, era una che aveva una bella capoccetta, direbbero a Roma, per cui non aveva nessun... in quel momento non aveva... Certo, naturalmente, peggiorando la situazione economica, perdendo la casa. In ogni caso, almeno per un po', l'eccitazione e la densità di eventi della primavera del 1972 sembrano offuscare per Maria Silvia il problema del licenziamento da scuola. Dopo la manifestazione dell'8 marzo in Campo dei Fiori, quella in cui era presente anche Jane Fonda, di cui ho raccontato all'inizio di questo podcast, c'è il 1 maggio, sempre a Campo dei Fiori, prima uscita pubblica del Fuori Romano, il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, l'altro gruppo oltre al Pompeo Magno a cui Maria Silvia si era unita. In quell'occasione di piazza opta per un gesto simbolico o situazionista, come si diceva ai tempi. Lo descrive lei stessa in un articolo apparso sulla rivista del gruppo. Ho addobbato una pattumiera a pedale in modo da esprimere l'uscita fuori delle lesbiche dal mondo capitalistico borghese. Aprendola col premere del pedale si dice fuori. Con questa e con alcuni fiori di carta variopinti mi sono recata sul luogo della manifestazione. Sono stata accolta da applausi, fotografata e ho dovuto ripetere la scena ad ogni arrivo di persona amica. La foto in questione è una delle prime che esce googlando il nome di Maria Silvia Spolato. Con l'immancabile eschimo, gli occhiali, l'aria arruffata e la sua pattumiera fra le braccia a cui è attaccato un cartello con scritto «Società paternalista capitalista borghese», sembra declamare qualcosa divertita. Sembra felice di essere lì. A Roma, infatti, Maria Silvia ha trovato delle buone amiche, oltre a delle agguerrite compagne di lotta. Oltre ad Anna Rapp c'è Fufi Sonnino, che era la cantautrice del movimento. Se su YouTube cercate inni femministi anni 70, sicuramente uscirà qualche canzone scritta e cantata da lei. E c'era anche Giovanna Pala, attrice di successo negli anni 50, che aveva recitato al fianco di Totò e Alberto Sordi ed era stata diretta da Monicelli. Nel 56 Giovanna aveva abbandonato il cinema perché non riusciva più a conciliare quello che era realmente una donna che si innamorava di altre donne e i ruoli che doveva interpretare in quelle commedie leggere. Io sono stata malissimo nel cinema, stavo male, capisci? Mi avevano proposto Cecchi Gori di fare Racconti d'estate e io ho detto, Dio no, un'altra cagata. Allora dico, no, adesso questo non gliela faccio più, cioè l'idea che di nuovo, anche perché io lavoravo sempre in questo ambiente di maschi. Tu, per esempio, fai un film, c'hai 30 maschi, tutti i tecnici, l'operatore, il regista, sono tutti maschi e sono pesanti. Nel 71 Giovanna era stata fra le prime a entrare nel circolo femminista Pompeo Magno, fingendosi una giornalista perché aveva paura che qualcuno si ricordasse di lei sul grande schermo. Ho saputo che al Partito Radicale c'era stato un convegno sulla condizione della donna e avevo sentito che c'erano queste donne che se n'erano andate, avevano sbattuto la porta, se n'erano andate perché non volevano far parlare gli uomini. Allora io un po' spacciandomi per giornalista, devo dire, insomma un po' così, gli ho detto, ah, ma queste donne, mi piacerebbe intervistarle, perché sentire un po' il parere, no? Ah, diceva, ma quelle sono delle matte. Io ho detto, ma io voglio conoscere queste secondo me sono quelle che mi stanno bene. E allora abbiamo cominciato e eravamo pochissime, eravamo una sessantina di persone e io ho trovato lì subito delle donne con cui confrontarmi. Di lesbiche ce n'erano, penso, solo due. Anche per Fufi Sonnino, la cantautrice del gruppo, il Pompeo Magno fu uno spazio di felicità dopo un'adolescenza che la costrinse, lei di famiglia proletaria, a trasferirsi ad Amsterdam per sfuggire al destino già scritto del matrimonio e dei figli. Ma sai, queste cose che ti commuovono dopo 50 anni, ma veramente mi da piangere se me lo ricordo. Che quando sono partita, chiaramente senza soldi, senza niente, perché non c'avevamo una lira, mi ero comprato un paio di scarpe, diciamo, quelle un po' belle, no? Che facevano rumore, cioè uscivano la suola sotto. E lei mi ricordo quando stavamo lì a Amsterdam, a questo bar, questa cosa, allora loro facevano il sirtaki, no? Allora io ballavo il sirtaki perché lo sapevo ballare, ma facevo tutto rumore, allora tutti quanti a guardare le scarpe italiane. Cioè, sono queste stupidaggini, però che ne so, proprio perché sono stupidaggini sono importanti. Cioè mi ricordo le emozioni delle persone, cioè tu non hai il ricordo della politica, il ricordo, capito, di tutte le difficoltà, cioè tu ricordi l'atmosfera, no, che è importante, perché quello che mancava negli anni 70, andando a casa non andavi, cioè tu eri considerata malata, perché era ancora considerata una malattia mentale, cioè eri soltanto questa condanna che tu proprio sessualmente, se non sei produttiva, sei nel torto, questa poi è la regola, ma tu metabolizza questo concetto. che il tuo valore è nella tua capacità riproduttiva e basta. Come avrete capito, non è facile, arrivati a questo punto della narrazione, evitare di uscire dai binari della storia principale, che è quella di Maria Silvia. Ognuna di queste donne straordinarie che ho avuto la fortuna di incontrare ha una storia importante da raccontare. Ma la protagonista qui è quella che non c'è più, Maria Silvia. E allora torno da Giovanna Pala e Anna Rapp, che l'hanno conosciuta bene, per chiedere loro che tipo di persona fosse. Giovanna mi risponde con il ricordo della prima volta che la vide al Pompeo Magno. Guarda, Maria Silvia si è presentata a una riunione e poi ha preso subito la parola, perché lei era molto lideristica nel suo modo di essere. E poi ha cominciato a parlare del progetto, un progetto fantomatico, di un gruppo di lesbiche. E nessuno ne aveva mai avuto notizia di queste donne. E lei sorrideva sempre, no? Era sempre un po' ironica, perché sembrava che il suo progetto poi alla fine manco ci credeva lei. Cioè, e ogni tanto veniva, ci proponeva sempre qualche azione shock che nessuno prendeva in considerazione. Per esempio, se ne ricordi qualcuna? Una è che a un certo punto, a me poi personalmente, mi ha detto: andiamo davanti a Film Studio con un cartello che siamo omosessuali e telefoniamo a tutti i giornalisti. Ti puoi immaginare, io l'ho proprio dissuasa, cioè, Maria, sì, stai tranquilla, lascia perdere. Anna Rapp mi racconta invece qualche episodio più domestico. Maria Silvia se la ricordano bene anche le sue figlie. In particolare la più grande, che oggi ha quasi 60 anni. Io ho due figlie, una ha 58 anni e l'altra 56. E questa del 58 dice: ma lo sai che Maria Silvia mi ha preso un giorno e dice: andiamo al cinema. Vabbè, andiamo al cinema. E mi ha portato al Farnese a vedere Psycho. Dice: ancora c'ho. Scioccata. Perché Maria Silvia era così, insomma. Io la trovo simpaticissima. Psycho è uscito nelle sale italiane nel 1960, quindi sarà stata sicuramente una seconda visione al cinema Farnese a spaventare per sempre la figlia di Anna Rapp. Perché ora siamo, lo ricordo, nella primavera del 1972, ma bisogna spostarsi per un attimo da Roma per andare in Liguria, a Sanremo. I gruppi del Fuori, il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, di cui anche Maria Silvia faceva parte, si erano dati appuntamento nella Città dei Fiori per una contestazione organizzata a regola d'arte. L'occasione era un congresso organizzato dal Centro Italiano di Sessuologia sul tema dei, cito, comportamenti devianti della sessualità umana, in cui erano stati ovviamente inclusi i comportamenti omosessuali. Quando ho incontrato Angelo Pezzana, il fondatore del Fuori, che avete conosciuto nell'episodio precedente, gli ho chiesto di raccontarmi di quel giorno, di cui è stato uno degli organizzatori. Sanremo, eravamo pochissimi, 10, 12, 13, in gran parte da Torino. Poi c'erano due dalla Francia, Françoise Dobon, che era una scrittrice, poetessa, molto brava. Lei è quella che è andata nel teatro ed è salita sul palcoscenico dove c'erano il direttorio degli psichiatri, è arrivata lì, ha preso il microfono, ha detto: adesso qui parliamo noi, non voi, di omosessualità. Noi dobbiamo dirne le cose, voi non voi. Dopodiché una decina di noi, che era nel guazzabuglio del movimento del momento, era entrato con delle fiale puzzolenti e le abbiamo pestate, per cui un odore terribile, sono tutti usciti perché non respiravano più. Anche lì una forma di ironia, non è che abbiamo dato un pugno a nessuno. E poi c'era appunto due dalla Francia, uno dal Belgio e Mario Mieli da Londra, perché lui viveva già da 2 anni a Londra, aveva lasciato la famiglia a Milano, viveva a Londra e frequentava il Gay Liberation Front. Già, in quella manifestazione storica, fra i militanti arrivati dall'estero, c'era anche Mario Mieli, l'attivista e scrittore più famoso della storia LGBT italiana, all'epoca ancora studente. Colui che, oltre a scrivere saggi tutt'oggi giudicati visionari, a fine anni 70, come inviato della RAI, andò davanti ai cancelli dell'Alfa Romeo a parlare agli operai sbigottiti di fluidità di genere, truccato e con indosso una tuta bianca aderente e i tacchi. Una specie di creatura venuta da un altro pianeta, insomma. Ma anche questa è un'altra storia. La contestazione di Sanremo è un momento che elettrizza e dà coraggio al movimento omosessuale. In questa giornata particolare, Maria Silvia, più che mai, incarna quell'elemento di evanescenza che, più vado avanti nella ricostruzione della storia, più mi sembra il suo tratto più marcato. Cosa intendo con questo? Pezzana sostiene che lei non era presente quel giorno a Sanremo, che i presenti erano pochissimi e non era possibile che si fosse mischiata nella folla, perché di fatto una folla non c'era. C'è però un articolo del Corriere della Sera del 7 aprile del 1972, intitolato con il solito tono paternalistico e offensivo «I gruppuscoli del terzo sesso», che parla della manifestazione a Sanremo. Bene, in quell'articolo Maria Silvia viene menzionata. È introdotta come, cito, insegnante di matematica che è stata sospesa dalla scuola per le sue battaglie in difesa della libertà sessuale. L'articolo dice che l'insegnante Spolato è rimasta al congresso. Quel rimasta, mi dico, potrebbe voler dire che magari arrivò il giorno seguente, per questo non fu vista da Angelo. Magari semplicemente Maria Silvia era arrivata a Sanremo dopo che gli altri se ne erano già andati. Ma allo stesso tempo mi piace immaginarla ineffabile, come un fantasma, tanto da non essere vista. Nonostante la sua apparenza inconfondibile. L'eschimo, il maggiolone, il suo cane John John. In ogni caso, dal 1972 all'inizio del 1974, Maria Silvia è attivissima nel movimento. Sicuramente il fatto di essere rimasta senza lavoro le permette di dedicarsi anima e corpo alla causa. In quel periodo fa diverse cose. Quella più importante è riuscire a pubblicare per una piccola casa editrice l'antologia intitolata I movimenti omosessuali di liberazione, quella che ho menzionato nell'episodio precedente, scritta dopo il suo viaggio ad Amsterdam. Si tratta di un compendio di scritti, saggi, volantini e manifesti dei più importanti gruppi omosessuali americani ed europei. Quel volume riesce a portare in Italia uno sguardo internazionale sulla questione LGBT, un merito importantissimo. Inoltre, Maria Silvia era persino riuscita a far scrivere l'introduzione a Dacia Maraini, che aveva conosciuto nei giri femministi romani. Ho avuto il grande onore di incontrare Dacia Maraini a Roma. Ci siamo date appuntamento in Piazza del Popolo, sul tragitto della passeggiata che fa ogni giorno prima di rimettersi a scrivere. Un'abitudine che, a quanto capito, ha da sempre. Più precisamente l'appuntamento era davanti all'obelisco, il cui perimetro è abbastanza grande, quindi, come sempre, sono arrivata in anticipo e ho passato un quarto d'ora a circumnavigarlo per assicurarmi che non la stessi aspettando sul lato sbagliato. Quando è arrivata le ho chiesto in che modo le istanze delle femministe di allora si incrociavano con quelle di chi portava avanti la liberazione omosessuale, che impressione le avesse fatto Maria Silvia quando l'aveva conosciuta e se ricordava come fossero entrate in contatto. Ma veramente non me lo ricordo. Cioè, era allora, c'era una grande fluidità nel mondo del movimento delle donne. Quindi, per esempio, io mi ricordo che alla casa occupata, la casa delle donne, certamente ci si incontrava, ci si conosceva tutte. E quindi io non mi ricordo esattamente come l'ho conosciuta, ma credo che durante l'occupazione della casa delle donne, mi sembra di ricordare, non sono sicura, ma che fosse in quell'occasione lì. Facevamo veramente una battaglia molto coraggiosa, anche dormendo per terra. Quello era un momento così molto in movimento, ancora non c'era niente di stabile, ancora anche perfino i gruppi erano molto fluidi, si scambiavano, poi piano piano si sono creati i gruppi più radicali, meno radicali, quelli più legati all'idea della parità di genere, quelli invece che volevano assolutamente separare due identità, insomma piano piano poi si sono create delle divisioni, ma in quel momento lì devo dire che era molto fluido, però c'era quest'idea della libertà che bisognava riconquistare tutte le libertà che riguardavano il governo, diciamo così, del corpo femminile, insomma, ecco, del passaggio dagli uomini alle donne che volevano in qualche modo essere padrone. Infatti, no, uno dei slogan era "Io sono mia". Che ricordo ha di Maria Silvia? Persona di molto coraggio, molto indipendente, secondo me anche troppo, perché poi appunto è andata, la sua indipendenza è tale, da quello che mi raccontano, perché io poi dopo l'ho persa di vista, ma che lei sia addirittura andava a dormire sui treni e stava in giro di notte da sola pur di non sottostare, no, a delle regole o a chi la voleva in qualche modo controllare. Secondo me è un segno di autonomia molto forte, molto coraggiosa, perché chi è che veramente si decide a stare a dormire in mezzo alla strada? È una vita infernale. Cocciuta, testarda, molto testarda, ma anche molto disponibile verso gli altri, generosa. Appunto, mi ricordo che quando c'era l'occupazione lei era fra le più attive, quelle pronte a disporre, a correre di qua e di là, quindi me la ricordo attiva, generosa, disponibile, piena di idee, molto curiosa della realtà, molto attenta e curiosa della realtà. Se le avessero dato più fiducia, lei probabilmente avrebbe fatto cultura, sarebbe stata un'animatrice culturale. Mi dispiace che poi appunto è sparita, insomma, io poi non l'ho più vista, e so che poi è andata a finire a Bolzano, che poi appunto è andata a finire in una casa di riposo e che lì e poi è morta. Quindi io penso che vale la pena di ricordarla, perché veramente era una bella persona. Dacia Maraini anticipa quello che sarebbe successo di lì a qualche anno, la sparizione di Maria Silvia. E trovo interessante che nel raccontarla parli di una volontà di autonomia fortissima che le ha fatto compiere scelte estreme, ma allo stesso tempo anche di una emarginazione forzata da parte della società, causata dalla perdita del lavoro e della casa, come sostiene anche la sua amica Anna Rapp. Lei ha cominciato a peggiorare, diciamo, a un certo punto è finita per strada proprio. Poi dopo ci ha avuto dei piccoli episodi, io dopo adesso non oso tanto dire parole che sono troppo specifiche, però come della paranoia, insomma. Io poi penso soprattutto che sia dipeso da questa sua crollare in questa povertà, insomma, perché questo è stato. Ricostruendo i vari pezzi di racconti e testimonianze, sembra che in questo periodo, siamo alla fine del 1973, Maria Silvia collabori con Effe, una rivista femminista. Ogni tanto, quando non dorme in macchina, viene ospitata in redazione insieme a John, il suo cane. Poi per tutto il 1974 è un girovagare di divani in case di amici. Deve essere in questo periodo che inventa il suo sistema ingegnoso. Compra un biglietto per il treno notturno che arriva fino a Bolzano, così da avere un riparo per la notte, e ritorna a Roma il giorno seguente. Qualche volta incontra qualche amica, ma comincia ad apparire strana, persa, scollegata dalla realtà. Gira con borse gigantesche che contengono tutta la sua vita e con le tasche piene di foglie e foglietti dove appunta tutto. Chissà cosa scriveva in quei fogli. Chissà se erano già la traccia di pensieri sempre più ingarbugliati e confusi dal non avere più una casa e un posto nel mondo. Fatto sta che proprio come quegli appunti segreti, anche la vita di Maria Silvia dalla metà degli anni 70 comincia a diventare prima sbiadita, poi indecifrabile. Quell'elemento evanescente, inafferrabile della sua persona diventa più grande di tutto il resto, la inghiotte, fino a farla sparire del tutto. Prima è una produzione di Spotify Studios in associazione con Cora Media. Executive producer Jacopo Penzo. La cura editoriale è di Ilaria Orru con il supporto di Alessio Olivieri. Registrazione, sound design e musiche di Francesco Ferrari per Frigo Studio. I fonici in presa diretta in questo episodio sono stati Michele Boreggi, Lorenzo Ferrillo e Francesco Cego. La voce di Maria Silvia è di Emanuela Colli. La sigla originale è stata scritta e suonata dai Berlinist. Grazie a Giovanna Pala, Anna Rapp e Fufi Sonnino per essere scese in piazza quando si correvano tanti rischi. Grazie ad Acia Maraini per avermi raccontato di quegli anni. I movimenti omosessuali di liberazione è edito da Asterisco Edizioni.